New York, 8 marzo 1848. Le donne scendono in piazza per i diritti politici. New York, 8 marzo 1857. Sciopero delle lavoratrici tessili. Brutalmente represso. Stoccarda, 1907. Prima internazionale delle donne socialiste. Copenaghen, 1910. Seconda internazionale delle donne socialiste. 8 marzo 1917. Le operaie di Pietrogrado manifestano, chiedono pane e pace. Scoppia la rivoluzione russa. Ma torniamo un momento indietro. New York, 25 marzo 1911. Una grandine di lucide scintille. Dalla miseria non si può scappare quando ci sei nato. Neppure se attraversi tutto il mare del mondo, fai il giro intero e arrivi dall'altra parte, fino all'America. Ti resta attaccata addosso la miseria, come la febbre terzana, che se te la becchi una volta non c'è medico che te la cavi. Guardati dai medici e dai preti, ascolta me, che quella è gente che arrivano solo nelle disgrazie e dopo ti chiedono pure i soldi. Tutta colpa dei preti. Se il prete non mi avesse istupidito il marito con tutte quelle storie sulla terra dove scorre il latte e il miele e la valigia che insieme al pane ci metti anche la speranza e che gli umili all'America trovano il regno dei cieli. Sì, il regno dei cieli, quello sì l'abbiamo trovato all'America, quello sì. Quel pretaccio maledetto venuto da fuori a riempirmi la testa al marito di bestialità che alla fine mi dice, pover'uomo, oh, per me peggio di così non ci può capitare. Tutt'al più all'America ci toccherà patire la fame come la patiamo adesso. Non parla molto il mio marito, ma quando parla sì, bisogna obbedire. E così siamo partiti. Il marito, io, il maschio, la Lucia e la Rosa. Il maschio me l'hanno subito rimandato indietro all'America. Un mese di viaggio, capisce? Un mese lungo, 30 giorni e 30 notti in mezzo al mare, che per poco non ci rimanevamo tutti secchi di asfissia sulla nave. E me l'hanno rimandato indietro il mio ragazzo, perché non ci vede da un occhio, inabile al lavoro, hanno detto. E io gli ho detto, ma con l'altro ci vede, niente da fare. Un timbro sulla carta e via a casa. E io gli ho detto all'ispettore, e adesso cosa ci facciamo soltanto con le figlie femmine all'America? E quel diavolo della Lucia che si mette in mezzo. Ma mamma, anche noi possiamo lavorare qui all'America, che si è presa uno schiaffone che parla sempre quando parlano i grandi. E lo sa che non si fa. Ma come mi sei uscita questa figlia matta? Oh, e mi toccava dargliele di santa ragione con la ciabatta e anche con la canna, che se non stavo attenta scappava da tutte le parti. Sulla nave, che poi era un vapore, si chiamava Cretic, sai cosa diceva quel diavolo della Lucia? Oh, che bellezza! Qui non si deve faticare, qui è sempre domenica. Mentre noi, per paura di arrivare scalzi all'America, tenevamo legato con lo spago l'unico paio di scarpe e ci mettevamo sopra la testa la notte per paura che ce le rubavano. E così ci siamo arrivate all'America, nella città di New York, non si dorme mai, neanche di notte, e ci sono case alte come colline. Noi però stavamo tutti stipati in una casa piccola da certi calabresi che non si capiva niente di quello che dicevano. Il lavoro però si è trovato subito, le femmine ancora prima del marito, prima in una piccola sartoria e poi alla TVC, una grande factory che c'erano tante italiane come noi e anche delle ebree. E dopo un po' c'è venuta anche la Rosa a lavorare alla TVC, poveretta, lei che aveva paura anche della sua ombra e se ne andava sempre in giro col cappello calato sugli occhi per paura di farsi vedere. Figurarsi lavorare in una factory con tutta quella promiscuità coi maschi, non ci era abituata E forse questo è stato il suo guaio. Lo sapevo. Sono 6:30. Mi hai messo tanta fretta che sono arrivata in anticipo. Oh, ancora in bocca il sapore del caffè che mi sono fatta stamattina sul fornello. Sei pronta, Rosa? Si va in prigione. Ma cosa hai capito? La prigione è come chiamiamo noi la Factory. Guarda, c'è la Dora. Sì, lo so, anche lei è arrivata in anticipo, ma è perché lei deve prendere un tram dall'altra parte della città. La Dora non si lamenta mai, mica come te. Va bene, non ti lamenti. Però fai quella faccia da morta che se ti lamenti è meglio. Hai visto che bella che è la Dora? Ha le guance rosse come mele e gli occhi da cinese, però sono blu. Hai mai visto una ragazza così bella? Tante grazie, Rosa. Lo so che non sono bella, però quando andiamo in giro a braccetto insieme, io e la Dora, i ragazzi si voltano e fischiano e noi ci divertiamo come matte a fare le smorfiose. I bei ragazzi però nella Factory ce ne pochi, sono quasi tutte femmine. Ma tanto a te che ti importa dei ragazzi? Oh, bada però, i boss sono tutti uomini, vecchi e brutti, e non bisogna dar loro confidenza, specie te, che sei un'ingenua. La Lucia diceva che all'America ti mettono il nome americano. E lei il nome lo voleva cambiato, perché Lucia era il nome della sua povera zia, mia sorella, che era morta di parto dopo averne fatti 7 di figli. La Lucia, poveretta, mia figlia, era piccolina quando aveva visto tutta quella macelleria. Era rimasta zitta nella stanza col catino in mano, che ce l'eravamo dimenticata. E poi era scappata dalla finestra, nei campi, che non la trovavamo più. Da allora diceva che lei non voleva saperne di marito e di figli, ma era perché era giovane e aveva il diavolo in corpo. Poi le sarebbero passate quelle mattane e i figli li avrebbe fatti anche lei, come tutte. La Lucia rispondeva che lei voleva fare la bella vita e per questo voleva andare all'America. Preferirei dormire che mangiare. La conosci questa canzoncina, Rosa? Ma dai, la conoscono tutti. A me l'ha insegnata la Dora. Oh, Dora, I'm here! C'è tanto fumo stamattina davanti ai cancelli che non mi vede neanche se siamo a 2 passi. Dora, parola d'ordine. Preferirei dormire che mangiare. Dora, ti presento mia sorella Rosa, detta Rosie. Rosie ringrazia la signorina Dora, che se non era per lei il lavoro te lo sognavi. È una fatica da bestie, ma è meglio di niente, no? Thank you, si dice thank you, no thank you. Oh, e non fare quella faccia da morta. Vedrai che ti trovi bene anche te all'America. Ma come mi sei uscita, questa figlia matta, da me, che non ho mai saputo dire no in vita mia. Te, Lucia, che no, è stata la prima parola che hai detto. La Rosa, sì. Lei sì che era figlia mia. Al paese, tutto il giorno a lavare i vestiti delle signore con quelle manine gonfie. E quando la sorella le diceva, ma Rosa, non ci vuoi venire anche te all'America a fare la bella vita? Che ci pensino gli altri, quelli che hanno studiato, rispondeva la Rosa, poveretta. Non io che non so niente. E così, quando si è deciso di partire, lei non ha avuto il coraggio di dire di no, anche se non ci voleva venire all'America. E aveva ragione lei. Mamma, no, era un sogno, ho sognato che salivo per tutti i 10 piani del grattacielo della Factory, ma le scale non finivano mai, allora arrivavo tardi alla macchina da cucire e il boss mi licenziava. Shhh. Tremi tutta, povera Rosa. Ma adesso è passato, mamma. Non preoccuparti, vai a dormire. Le erano venuti due cerchi neri intorno agli occhi alla Rosa, per via del sonno che all'America ne aveva poco o niente. Ci sono due tipi di lavoro in questa factory. Uno è il lavoro regolare, che ti dà uno stipendio fisso. L'altro è il lavoro a cottimo. Il lavoro regolare, le ragazze devono restare alla macchina da cucire dal mattino fino alle 8 di sera e viene pagato circa $7 la settimana. Il lavoro a cottimo vuol dire che ti pagano di più se fai più camicie. E allora noi abbiamo scelto questo perché cucire alle mie figlie gliel'ho insegnato io. Certo, se ti capita di strappare un capo non vieni pagata e ti tocca rifare tutto, ma è giusto così. Rosa, Rosa, che cosa ci fai ancora in piedi? Vai a dormire. Mamma, ho paura di non svegliarmi per tempo. Vai a letto, Stella. Sì, mamma, un pochino sono agitata, ma poi passa. Sai cosa faccio? Preparo già il ditale e le forbici, così domattina è tutto pronto e faccio prima. Buonanotte, mamma. Oh, un momentino, ci metto anche il pezzo di pane per il pranzo. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Rosa. La Lucia aveva cominciato a stare sempre insieme a quella russa, la Dora. All'inizio di ogni stagione ti tolgono $2 dalla paga, se mai capito perché. La Lucia e la Dora non si davano pace per questa storia dei $2. È così che sono cominciati tutti i guai. Si figuri che quella Dora lì era anche un'ebrea. Secondo me i soldi ce li aveva nascosti da qualche parte e faceva solo finta di essere povera. Quelle due insieme erano un pericolo pubblico. Ma non ci si poteva fare niente, anche perché la Lucia aveva imparato a parlare un po' d'inglese e lo facevano apposta lei e la Dora per non farci capire niente a me e al marito. Io e la Dora appendiamo cappelli e cappotti ai ganci e alle 7 siamo già sedute alla macchina da cucire e aspettiamo lo stint, il mucchio di lavoro da finire durante il giorno. Ce lo porta il boss. Dora, ci sei? Pronti? Via! Vanno le macchine come matte tutto il giorno. Hurry up, hurry up! Più veloce lavori e più soldi guadagni. Hurry up! Una volta che un capo è finito, lo posi dall'altra parte del tavolo. Hurry up! Sembriamo macchine anche noi. Certe volte vanno così veloci che mi restano i diti sotto l'ago. E però non fa così male perché va molto in fretta. Io faccio così. Leggo il dito con un pezzo di cotone e ricomincio a lavorare. Hurry up! Hurry up! Schiaccia i piedi sul pedale! Hurry up! Hurry up, Dora, stop! Ho finito prima io! Il marito non ci aveva la forza di intervenire. Povero uomo, era tutto istupidito dall'America. Se noi non sapevamo l'inglese, lui non era capace neanche di scrivere in italiano. Si figuri che prima di partire non aveva mai messo piede su un treno. Figurarsi trovarsi qua in mezzo all'America. Tutto quel rumore, le automobili, le luci, troppe luci e tutta la gente che ti scontrano senza neanche guardarti. Come faceva a stare dietro a quel diavolo della Lucia? Ora poi aveva cominciato a stare sempre insieme a quella russa, la Dora. Era scappata da sola dalla Russia per via della rivoluzione. E adesso la rivoluzione voleva farla qui, all'America, ma che se la facesse a casa sua la rivoluzione. Una poco di buono che non mi è mai piaciuta. Ma papà, alla Dora bisogna soltanto dire grazie. Lei qui è una vera celebrità. Per merito suo, adesso sono davanti, vicino alla finestra. La luce della lampada non basta mica. Diventerei cieca a forza di cucire. Quelle delle file indietro devono cucire soltanto con le lampade e hanno certi occhi pesti. Guarda la rosa, è finita indietro. Oh, ma vedrai che oggi domani la spostano. Il boss l'ha presa a ben volere. No, papà. Il boss non è il proprietario della factory, e chi li vede mai i proprietari? I boss sono delle specie di caporali, li pagano per controllare, non per lavorare. Ce n'è per il giorno e per la notte. Ah, ma io faccio presto. Alle 8 sono fuori, non voglio farmi mettere i piedi in testa io. Faceva tutto facile la Lucia. La Rosa invece, poveretta, l'America la pativa. Ma non era stupida come voleva farla passare sua sorella, e nemmeno ingenua. Si sa com'è fra sorelle, c'è sempre un po' di gelosia, ma in fondo si volevano bene. Adesso non ho più paura, forse solo un pochino, ma è il rumore di quella porta che si chiude quando entriamo tutte. Fa un tonfo pesante, una sola porta per quella stanza che si soffoca. E poi le finestre piene di polvere. E sì, mamma, il boss mi guarda da capo a piedi e io sento la faccia che mi brucia. Mi viene sempre troppo vicino e davanti a tutte mi dice: vediamo che cosa possiamo fare di questa qui. Allora le altre ragazze ridono, si chinano sulla macchina da cucire e fanno delle battute. La Lucia non è che mi può aiutare, è seduta molto più avanti di me. Ma vedrai che domani andrà meglio. Ieri era il primo giorno e mi tremavano le mani e non riuscivo a fare niente. Ma poi mi sono detta: se non faccio questa camicia presto e bene, mi mandano via subito. Allora mi sono fatta coraggio. Ci ho messo del tempo, ma l'ho finita. E l'ho posata sul tavolo. Il boss ha controllato ogni punto con l'ago. E poi l'ha messa giù e mi ha dato una mano. Mi sono sentita così felice. Ma la ragazza vicino a me ha detto: ah, guarda questa smorfiosa. Adesso mangia il pane nero, ma domani ruberà il lavoro a tutte noi. Mamma, io non voglio rubare niente a nessuno, però se lavoro bene, quello che guadagno è mio. Lavorava la Rosa, poveretta. Lavorava come una forsennata. Faceva tutti gli straordinari e andava anche la domenica quando la chiamavano. L'era presa una smania di lavoro che mi si era tutta dimagrita. Anche se tanto grassa la Rosa non era stata mai. Ma poi penso che forse faceva tutto questo perché io e il marito stavamo sempre dietro a quel diavolo della Lucia e lei quasi ce la dimenticavamo. Papà, papà, guarda, guarda, ti faccio vedere. Questo è il boss che viene a controllare se lavoriamo veloci. Oh, l'abbiamo soprannominato tacchi di gomma perché anche se è grasso come un maiale, quando ti viene vicino non lo senti. Sei arrivata tardi, Strictly. Questo vuol dire che ti tolgono dei soldi dalla paga, anche per un solo minuto. Certo però che siamo centinaia di ragazze, alla fine per i padroni sono delle belle sommette. Sei andata al cesso, ti ho vista, e vorrebbe farmi paura, ma a me fa solo ridere per via di quei baffoni attorcigliati. Se ci resti un minuto di più ti licenzio, non va bene, rifare. Così tutto il giorno. A me dà fastidio, soprattutto quando all'uscita ci frugano per paura che rubiamo. Che poi non ci sarebbe niente di strano con quello che ci pagano. You know work. Oh, papà, quando dice così c'è il licenziamento immediatamente. Ce l'ha soprattutto con le ragazze nuove. O gli sta sempre appiccicato come con la Rosa. No, volevo dire che la Rosa sa il fatto suo, che sa difendersi da solo. Insomma, papà, parlavamo del boss. Ci tratta peggio di come immagino gli schiavi negri. Alla fine ci sono andata anch'io a lavorare alla Factory per controllarle. Quel diavolo della Lucia e anche la Rosa, poveretta. Anche se così umiliavo il marito, che era rimasto l'unico senza lavoro. Praticamente lo mantenevamo noi femmine. Ma all'America è tutto il contrario, forse perché siamo dall'altra parte del mondo. Ma in qualche maniera dovevamo pur tirare avanti. Dora, Dora, mi sento così debole stasera che vorrei accasciarmi a terra e dormire lì, sotto quella macchina. Oh, Lucy, come on, sì, fai presto tu, Dora, Lucy, come on, Lucy, come on. Una donna oggi mi ha detto che ci trattano come bestie, anche se non siamo più delle straniere, un po' di ragione ce l'ha, no? Sì, Lucy, ma quella donna continua a lavorare in questa factory. Lamentarsi non serve a niente. Vieni, usciamo. Aspetta, devo chiamare mia sorella Rosa. Rosie, lascia stare tua sorella Rosie. Il boss l'ha chiamata nel suo ufficio. Sarà una cosa grave, no? Diciamo semplicemente che la piccola Rosie questa sera farà un po' di straordinario. Dove andiamo? A teatro? A me piacciono soprattutto le rappresentazioni che fanno piangere. The Two Orphans è bellissima. L'ultima volta che l'ho vista ho pianto tutta la notte. O andiamo a vedere le vetrine. Questi bottoni li odio. I miei dicono che spendo troppo e mi sgridano, ma sono gente con una mentalità all'antica. Non capiscono che una ragazza che non si veste bene la mettono in un angolo. Bisogna mettere su un po' di stile qui all'America se si vuole andare nell'alta società o a Coney Island o a teatro. Am ready, Dora? Parlavano tutte una lingua diversa qui all'America, anche se tempo per fare conversazione nella Factory ce n'era gran poco. Noi ci facevamo dei segni e basta. Tranne quel diavolo della Lucia che non la smetteva di parlare un solo momento. Era fatta così. Era un lavoro duro, ripetitivo. Pensarci bene, il lavoro nei campi era meno duro, almeno stavamo tutto il tempo all'aria aperta e il ritmo non era così veloce. Ma in qualche modo ci eravamo abituati. Pensi che vicino a casa nostra ci abitavano dei negri, una famiglia intera. Noi di negri non ne avevamo mai visti. La Rosa ne aveva paura. La Lucia invece, quella faceva amicizia con tutti, negri e napoletani. C'era un napoletano che le dava la frutta quando ne aveva bisogno e non aveva i soldi. E a me questa cosa non è mai piaciuta, perché gli uomini ti chiedono sempre qualcosa in cambio. Ma tant'è, se una è fatta così, non c'è niente da fare. La Rosa invece, poveretta, per via che era timida, evitava tutti. O quasi. Mamma, adesso che l'aria è più calda, non prendo più il tram per tornare a casa. Vengo a piedi, così risparmio il costo del biglietto. Da sola, da sola. La Lucia non me lo dice dove va quando stacca. Oh, mamma. Io penso che siamo proprio fortunate noi a lavorare alla TV, sì. Il sabato si esce prima e quando facciamo tardi ci danno un pezzo di torta di mele per la cena. Non credo che troverei un lavoro migliore. Certo, a volte il boss ti dice se non vieni la domenica non tornare il lunedì, che vuol dire licenziamento, però ha ragione lui. Se hai voglia di lavorare, guadagni. Solo vorrei che ci fosse uno schienale alla seggiola per riposare un po' il collo, ma poi passa. Adesso poi va molto meglio. Il boss mi ha spostata vicino alla finestra. Oh, mamma. Mamma, per strada vedo tanta povertà, i bambini che giocano nel fango, le case luride. Cammino, cammino e penso, caro Dio, ma potrà mai essere diverso? No, mamma, che non bestemmio, Signore, no, dormi. Ma sì, le dico le preghiere. Le dico sempre. Aveva detto che sarebbe andata a teatro con la Dora quella sera, ma io le avevo viste parlottare alla macchina da cucire come due che stanno per combinare un guaio. Mamma, io non sono una spia, però questa cosa la devi sapere. Quelle due non sono andate a teatro, sono andate in un posto che si chiama Cooper Union. Allora io le ho seguite, senza farmi vedere naturalmente. C'era una riunione in questa Cooper Union e c'erano tanti operai e tante operaie femmine. E la Dora conosceva tutte che la sua specialità è tirarsi dietro le matte e le disgraziate. C'è un podio in questa Cooper Union e ad un certo punto sul podio è salito un signore elegante che si chiama Samuel Gumpers, è un personaggio importante, presidente della AFL, vale a dire il sindacato. E quando questo Mr. Gumpers è salito sul podio, tutti si sono alzati e hanno cominciato ad applaudire. Un momento di silenzio e poi questo mister inizia a parlare. La vostra accoglienza mi commuove. Ma io non voglio che il vostro entusiasmo sia dedicato ad un uomo solo. Io voglio che tutta la vostra forza si riversi nella nostra causa comune. Lo sciopero è l'unica maniera per rompere le catene della schiavitù. Sì, cari signori padroni, Mr. Isaac Harris e Mr. Max Blank, sarebbe molto scomodo per voi se le vostre ragazze scioperano. Ah, ma esiste qualcosa di più importante del profitto della TVC? Le vite dei lavoratori. E qui, mamma, la folla si scatena. E poi succede una cosa, quelle del gruppo della Dora la sollevano e mettono lei sul podio. E tu non ci crederai. Mr. Gompers le fa un inchino e si fa da parte. E allora quella sfacciata della Dora, davanti a tutti, fa un discorso. Sì, Sono io, quella che è stata picchiata dalla polizia durante l'ultimo sciopero. E voi sapete perché? Perché chiedevo sicurezza e giustizia. Non vogliamo più essere trattate come bestie. La TV sì è pericolosa. E poi non esiste una sola ragione perché ci tolgano $2 dalla paga. Non c'è motivo. Se continueremo a sopportare tutto questo, sarà solo la giusta punizione che ci saremo meritate per essere povere e docili. E allora andiamo tutte allo sciopero generale. Sicurezza e giustizia! Sicurezza e giustizia! Sicurezza e giustizia! Sicurezza e giustizia! Sicurezza e giustizia! Oh, la folla si scatena! E in mezzo agli applausi la Dora scende dal palco. La Lucia era arrivata in prima fila per farsi notare, come sempre. E la Dora abbraccia lei. Per prima di tutte le altre. E poi è arrivata la polizia, ha preso tutte le manganellate e ognuno a casa sua. Oh, mamma. Mamma, a me i discorsi della Dora sembrano solo propaganda, ma questo pensiero l'ho tenuto per me. Però dicono che lo strike si farà. Si farà, mamma, e quelle che vogliono entrare troveranno davanti ai cancelli i picchetti e con i cartelli e i volantini scritti. Ascolta, senti qua. La TVC è un trap, una trappola. Non lavorare in questa factory fino a quando non saranno predisposte sufficienti scale antincendio per tutti i 10 piani del palazzo e comporte che si aprono verso l'esterno. Ma ti sembra giusto, mamma? Ti sembra giusto? Io lavoro, ho diritto a guadagnare il mio e quelle mi obbligano a stare a casa. Le ragazze come la Lucia non dovrebbero interessarsi a queste faccende, portano solo guai. Ma è la Dora che le sta facendo il lavaggio del cervello. Invece di lavorare pensano ai traps. Ma che ci pensino quelli che hanno studiato, non noi, che non sappiamo niente. Ninna nanna 7:20. Il mio pupo si addormenti, s'addormenti e fa un bel sonno e si svegli domani a giorno. Na na na na na ieri e le sporte non sono paniere. Questa canzone l'è già finita. Nannao, nannao, il mio pupo si addormentò. E poi è successo il fatto. Eravamo arrivate alla fine della settimana. 10 minuti e poi tutte a casa, meno male. Io dal mio posto le controllavo, quel diavolo della Lucia e la sua compare. Guardale là. Non stanno più nella pelle perché era giorno di paga e chissà che cosa avevano in mente. La Rosa invece dietro, china sulla macchina. A un certo punto la Dora si gira verso la Rosa e fa con quella sua malizia negli occhi: Rosa, vieni anche tu a teatro con noi questa sera? La faccia della Rosa sembrava l'avesse punta una vespa. No, no, non mi lasciano. Devo risparmiare io. E allora qui la Lucia sbotta. E smettila, ma smettila! Ma non ce ne siamo accorti noi che la Madonnina infilzata qui ti fai accompagnare tutte le sere a casa del boss. Oh sì, risparmiare i soldi del biglietto, ma che balla, che balla! Sì, guarda, sappiamo benissimo che te la fai con quel vecchio ciccione, perché quando non hai testa di lavorare lui ti dice vai a sederti sul cesso, che il tuo lavoro lo fa un'altra. Sei cattiva, Lucia, sei cattiva, sono tutte bugie. Se dici queste cose a mamma e papà, io dico a tutti che ieri eri alla Cooper Union, te e questa puttana ebrea. Non fai in tempo a finire la frase che batte una facciata sul tavolo da cucito. Ero io che da dietro le ho dato un mal rovescio che neanche sua sorella quando scappava dalla finestra. Cosa fai tu? Cosa fai? Dove vai quando esci dalla factory? Ma come ti ho tirata su, eh? Come ti ho tirata su? Non te l'ho sempre detto che gli uomini non bisogna dargli confidenza, perché chiedono sempre qualcosa in cambio. È giù un'altra sberla. E quella che si rattrappiva tutta è la sorella. Ah, no, basta, mamma, no, basta. Ma a me tremavano le mani e non ci vedevo dalla rabbia. E menavo sberle a destra e a manca, alla Rosa e anche a quel diavolo della Lucia, che tanto lei, una più una meno, era uguale. E stai zitta tu, Lucia, stai zitta, che ce n'è anche per te. Tu sei anche vigliacca, sei vigliacca, perché tu a me e a quel povero uomo di tuo padre quella storia lì della Cooper Union ce l'hai già detta. E giù un'altra sberla. Tutte le ragazze dell'ottavo piano avevano smesso di lavorare, adesso stavano lì fra lo stupore e il ridere a guardare quella sceneggiata che sembrava Napoli e la Rosa che piagnucolava. Ho sempre tutto sbagliato io, anche se porto a casa più soldi di tutti, ha sempre ragione la Lucia, anche sempre appiccicata a quella strega ebrea. Puttano, vergognati! Vergognati, vergognati, che non gliel'avevo certo insegnato io a dire certe parole, e neanche a farla la puttana, che sembrava tutta vergognosa. Invece in quel momento arriva il boss. Allora io con uno spintone mando la Rosa al suo posto e torno al mio. Era arrivato il momento che il boss faceva il giro delle macchine con le buste paga. Un silenzio di tomba, tutte aprivano la busta con paura, ma poi tutto bene. Io pensavo, con le mani che tremavano e bruciavano, stai a vedere che adesso per colpa di questa sceneggiata ci tolgono dei soldi o mi licenziano, invece tutto bene. La Lucia aveva appena aperto la sua busta che... Che cos'è questa nota dentro la mia busta? Non sai leggere, dice il boss. Ci hanno licenziato, fa la Dora, che intanto aveva aperto la sua di busta. E perché? Dove eravate ieri sera dopo le 8? E che cosa importa a voi dove siamo dopo l'orario di lavoro? Oh, per me, purché non vi imbicciate in riunioni sindacali, potete anche andare a battere il marciapiede, quelle sceme delle donne che si mettono a ridere. Non ridete, non ridete, c'è una spia in questo posto, sì, ieri eravamo alla Cooper Union, ma ci siamo andate anche per voi, perché non è giusto che ci tolgono $2 dalla paga. E alcune delle donne hanno cominciato a borbottare, ha ragione, perché devono toglierci $2, non c'è motivo. Allora la Dora si alza e va dritto verso il boss e fa un cenno a quelle che avevano protestato. Tutte si alzano, avanzano e così, tutte schierate, facevano davvero paura. Tornate alle vostre sedie, dice il boss, ma gli tremava la voce. Non prima di aver chiarito, fa la Dora, a sedere! E il boss alza il pugno e fa per pestare la Dora. E allora, oh santa Madonna, Santa Madonna, la Lucia, veloce come un fulmine, afferra le forbici e le pianta sotto il mento del boss. Lucia, Lucia, per favore smettila, dammi quelle forbici, mettile giù, non metto giù niente. Boss, sei un prepotente, io ti faccio a pezzetti. Ragazze, siamo metà di 1000 in questa stanza. Lucia ragiona, queste donne devono lavorare se vogliono mangiare. Fa il boss con le forbici alla gola. Sto parlando io! e la Lucia pianta più forte le forbici nel collo del boss. Ragazze, ragazze, se tutte quante siamo nel sindacato, possiamo contare qualcosa in questa factory. A questo punto la Rosa, che quando c'era gente le parole dovevi cavargliele di bocca, si intromette e dice davanti a tutti: Lucia, smettila, smettila, lascialo stare, anche lui è qui per lavorare. Ci sono sai quante persone che vorrebbero essere al nostro posto? Proprio te parli, mia sorella, come c'era rimasta male, povera Lucia. E poi basso basso che sentivo solo io. Guarda che lo so che sei te la spia, proteggi il tuo amico, stai tranquilla, non dico niente io. E alcune delle altre donne però avevano cominciato a parlare: basta con la violenza, non voglio entrare in questa storia, Lucia sei una matta, io me ne vado a casa. Sentivo l'ansimo del boss, tutto sudato, e adesso le forbici si erano piantate un po' di più nel grasso del collo e da un buchino usciva un po' di sangue. La Lucia, dopo il discorso della sorella, non sapeva più cosa fare. Era tutta confusa e le tremava il labbro come quando da piccola le toglievo la tetta perché dovevo svezzarla. La Rosa fa un passo verso di lei, ma io la mando via, ci parlo io con mia figlia. Lucia, Lucia Stella, Stella Lucia, ti prego, metti giù quelle forbici, fallo per la tua mamma. E lei coi lucciconi agli occhi. Siete tutte delle stupide. Non voglio avere più niente a che fare con questa factory. Ecco le forbici. Ma quelle forbici, Lucia. Quelle forbici che ti portavi da casa tutte le mattine e ti avevano fatto venire i calli alle mani. Quelle forbici che erano il tuo pane e il tuo tormento, Lucia, luce dei miei occhi, mentre le scagli con la tua maldestra smania di vita vanno a sbattere contro una di quelle lampade che ci rendevano ciechi. Quella maledetta lampada cade a terra e si spacca in mille pezzi. Una scintilla, Lucia, una scintilla come un diavolo birbante appicca il fuoco alle camicie sopra la tua testa, una linea di vestiti in fiamme, una tenda ribollente gialla, le stoffe, le ceste dei fili, il cotone, gli avanzi di tessuto a terra, i nostri vestiti, il piano va a fuoco, il palazzo va a fuoco, figlie mie, stiamo bruciando. Is burning! Questa maledetta fabbrica va a fuoco! Urla la Dora e comincia a cantare una vecchia canzone. Every little movement has a meaning, all its sound. E tutte le ragazze ridono, le fiamme fanno scoppiare la prima finestra dell'ottavo piano. Boom! E poi una dopo l'altra tutte le finestre. Boom, boom, boom, boom, boom! Il fuoco esce felice anche lui di libertà. Lucy, Lucy, come on! Dora, la Dora urla, urla! Lucy, come on, Caterina, Rosa, andiamo! Andiamo via! Corriamo tutte verso la porta, io faccio per aprirla, ma, oh Gesù, è bloccata! Non si apre, urlo alle ragazze dietro di me che spingono. Ma chi mai può avere fatto una cosa del genere? Sono stati padroni, Rosy, perché non vogliono che usciamo prima del tempo, per l'amor di Dio! Aprite questa porta, qualcuno apra questa porta, non ci sente nessuno. È tutto inutile, non serve a niente, dice la Dora. Andiamo col montacarichi. Resto aggrappata con tutte le mie forze al vestito di mia sorella per non perdermi. Corriamo tutte davanti al montacarichi, c'è una folla di ragazze che lottano per entrare e si graffiano la faccia, ma siamo troppe, il montacarichi è pieno. La porta si chiude di botto davanti a noi. Dentro c'è il boss, ma distoglie lo sguardo da me. Si salverà. Goodbye. Stop! Aprite questa porta! Urlano le ragazze e grattano il vetro. Il calore è sempre più forte. Il montacarichi inizia la sua corsa in discesa. Non riesco quasi a respirare. La Dora si avvolge la sciarpa attorno alla testa come uno strano turbante. Improvvisamente attorno a me, ragazze in fiamme urlano: aiutateci, aiutateci, per l'amor di Dio, stiamo bruciando. E la Lucia prende un secchio e getta acqua su di loro, ma il fuoco non si spegne. Le ragazze vanno alla finestra e si buttano giù. Io lo sapevo che non sarebbero riuscite a spegnerle ed ero rimasta qui al montacarichi, aspetto che torni a prenderci. Ma sento che manca qualcosa. La mamma. Abbiamo perso la mamma. Mamma! Mi volto e la vedo che cade travolta dalle ragazze in fiamme. La mamma è caduta! Tiriamola su! Lasciate che si rialzi da sola! Urla la Dora. No! La calpestano! Vado verso di lei, controcorrente alle ragazze che corrono verso il montacarichi, che adesso è risalito. Lasciatemi! Andate voi! Prendete quel montacarichi! Presto! Dice la mamma. Io allungo una mano verso di lei, ma non la vedo più nella folla. Le ragazze mi travolgono e cado. E penso, ecco, adesso muoio qui, schiacciata come una formica. Poi sento le mani forti della Lucia che mi tirano su. E un attimo dopo, non so come, siamo di nuovo davanti al montacarichi, che però è appena partito verso la salvezza. E la Lucia l'ha perso per salvare me. Grazie, grazie Lucia. Lei mi guarda negli occhi e alza un braccio per colpirmi, poi lo ritira. Abbiamo perso questo viaggio, il prossimo è nostro. Con la faccia attaccata al vetro e le mani aggrappate alle sbarre per non farmi prendere il posto, vedo il montacarichi cadere giù per 100 metri. Il meccanismo si è rotto. Abbiamo perso l'ultimo viaggio. Il montacarichi è crollato. Noi siamo vive. Il fumo è sempre più forte e anche il turbante della Dora ha preso fuoco. Allora lei coi pugni spacca il vetro della cabina del montacarichi. Allunga un braccio e afferra un cavo. Poi ci avvolge anche le gambe e si lascia andare, scivola giù. Le sue povere mani saranno bruciate dai cavi, ma si salverà. La Lucia sta per fare uguale quando delle ragazze la superano e si buttano nella tromba del montacarichi. Perché? Una di loro urta alla Dora, che non riesce più a restare aggrappata ai cavi, e cadono tutte giù. Sono torce infuocate. Scompaiono e si spengono nel buio. Io mi volto verso la Lucia, che ha visto tutto ma non ha detto una parola. Si è morsa il labbro così forte che adesso le sanguina tutta la bocca. Noi contadini ci calpestano da sempre. Ci siamo abituati. Per questo quelle poverette che mi erano passate sopra non mi avevano ammazzata. E allora corro subito verso le figlie, che per fortuna non lo avevano preso quel montacarichi. A cosa servono queste invenzioni? Ci sono le scale, urlo alle figlie. Ma la Lucia se ne stava lì, imbambolata, muoviti! Oh mamma, mamma, mamma, sei viva! E mi abbracciava la Rosa. Ma da dove vuoi passare, mamma? Di là, dalla scala antincendio. Ce n'è una che arriva fino all'ultimo piano del grattacielo. Questa cosa non la sapevano in molte, a me l'aveva detto la Lucia, che però adesso, per una botta o per la paura, se ne stava lì, impalata, che dovevo tirarla per un braccio. Forza! Forza, aprite quella porta! Le ragazze che avevano cercato di entrare nel montacarichi, adesso correvano tutte verso la porta della scala antincendio e cercavano di aprirla con tutte le loro forze, ma non ci riuscivano. Perché? Perché? Perché anche questa porta non si apriva? Perché io non riuscivo a capirlo? Tutte urlavano, non sapevo più cosa fare. Poi improvvisamente ho capito. Ho capito. La porta non è chiusa, ma sia per il contrario. Lasciate stare, la apro io, vado verso la porta e tiro con tutte le mie forze. Quella un po' si apriva, ma le altre dietro premevano e la richiudevano. E allora ho preso una spranga di ferro che c'era lì per terra e ho menato colpi a destra e a manca e... Le ragazze si scalzano e riesco ad aprire la porta. Ma in tutto quel trambusto dove sono le mie figlie? Resto lì davanti alla porta aperta e vedo passare tutte le ragazze che si scaramentano giù per la scala. Alcune crollando anche per il panico. Sieta! Presto, Golda! Golda, dov'era Golda? Lasciatemi andare, voglio passare prima io! Cioè, tutte vogliamo scendere! E allora non so che cosa mi è preso. Ho iniziato a salire per quella scala che tutti imboccavano in discesa e sono salita da sola, su, verso il tetto della factory. Io dicevo, ecco, io salgo per questa scala stretta fino al regno dei cieli, perché è lì che incontrerò le mie figlie. Ma quando sono arrivata sul tetto, che non era il regno dei cieli, mi sporgo e vedo la scala crollare giù con tutte le ragazze sopra. Ti prego, Lucia, io sono sicura che la mamma è viva, sono sicura. La mamma è forte come un albero, stai tranquilla. Mi pare proprio di averla vista salire sul tetto della factory, lì il fuoco non ci arriva, te lo giuro, Lucia, muoviti. Non guardare lì, Lucia, non guardare. Lucia, non possiamo restare qui, il fuoco ha invaso tutto il piano. Io non voglio morire bruciata alle macchine come quelle. Su, Lucia, fai un passo, vieni, usciamo sulla finestra. Dammi la mano, Lucia, ti aiuto io. Ecco, senti. Aria. Guarda, Lucia, è come al cinematografo che c'è quell'attore che cammina sul cornicione, ma poi si salva sempre. Alle altre finestre sono arrivate le ragazze. Eccole, Enza, Ietta, Albina, Andy. Oh, guarda, Lucia, guarda. Ci sono i giornalisti, ci stanno facendo le fotografie, diventeremo famose. Sono così piccoli visti da quassù. I pompieri stanno aprendo i teloni per raccogliere le ragazze che si lanciano, ma mi romperanno. Io me ne intendo di stoffe. Non serve a niente, laggiù, non serve a niente. Ecco anche Francesca, Josie, Albina, Annie. Si buttano tutte e i teloni si rompono. Betsy, Clara, Diana, Molly, Esther. Il mio vestito va a fuoco. Una cosa prima. Lucia, mi perdoni? Abbracciami. Grazie. Lucy. Devo andare adesso. Oh, ma devi buttarmi tu. Io da sola ho paura. Sei pronta, Lucy? Close your eyes. Ora. Volo. Volo, il cappello ben legato sotto al mento. Mamma, mi riconosci? Sto volando, forse mi impiglierò da qualche parte e mi salverò. No, non sono mai stata fortunata. Tutti mi guardano, ma non provo nessuna vergogna adesso. Non doveva finire così. Avrei voluto dei bambini maschi, però per loro la vita è meno dura. Sto volando e il mondo si capovolge. Sento l'odore dei miei capelli che bruciano. Mamma, non sono più la rosa poveretta adesso. Sono una cometa di fuoco. Ehi! Oh, laggiù! Aiutatemi! Ascoltatemi! Ascoltatemi! Sono Maltese Lucia! Oh, lo so, lo so! Lo so che non ho gli occhi belli della Dora e neanche le sue parole, ma questa è la mia ultima occasione ed è importante. Ragazze, abbiamo sanguinato sulle linee dei picchetti e oggi bruciamo. Siamo scintille oggi, una grandine di lucide scintille, ma domani ho fatto del mio meglio. Devo andare adesso. Avevi ragione tu. Il pelo si è strappato e mi scaravento a terra, ma non muoio subito perché. Fiumi d'acqua scorrono su di noi e siamo solo silenziosi mucchi di stracci a terra. Sento la folla che urla ai pompieri. Allargate quei teloni, alzate le scale, così non si salverà nessuna. Le ragazze sul cornicione troppo corto. Tonfo, morto. Sento un uomo che piange e si aggira attorno a noi, bambole rotte, ma non capisco la sua lingua. Tonfo. Sento la polizia che carica la folla. Un ragazzo dice: ah, avessi del denaro, comprerei una pistola. Tonfo. Morto. Sento le sirene e la folla che urla: no, no, non gettatevi, morirete tutte. Una cascata di ragazze in fiamme. Tonfo, morto, tonfo, morto, tonfo, morto. Conto 62, tonfo, morto, e li chiamo così. Perché ogni volta il pensiero della morte e il suono sono arrivati da me nello stesso istante. Tonfo, morto. Un uomo, forse un dottore, mi lega un filo al polso e dice: oh my God, 140, va via. Io vorrei dirgli: torna, non sono ancora morta. Se torni potrei amarti per tutta la vita, ma riesce solo un sospiro e lui torna. Presto, presto, questa è ancora viva. Sento il fiato delle sue labbra su di me, sembra un bacio. E poi... Continuava a ripetere: dove sono le mie figlie? A tutte quelle donne sul tetto del grattacielo che si picchiavano, io non capivo perché una mi dà un pugno, mi getta a terra. Dove sono le mie figlie? Poi un ragazzo dall'aria per bene mi pulisce il sangue dalla faccia. E io penso: che cosa ci fa? Che cosa ci fa un ragazzo così qua sul tetto della factory? Sarà un angelo. Allora gli chiedo: dove sono le mie figlie? Ma lui, insieme ad altri due ragazzi, gentili, eleganti, mi fanno passare su una scala che hanno messo attraverso tra il tetto della factory e il grattacielo di fronte. Lì ci vanno gli studenti dell'università. Ecco cosa sono questi ragazzi, penso. Sono studenti angeli. Io non so come ho fatto a passare dall'altra parte, non me lo spiego. Infatti poi mi hanno detto che la scala dopo un po' è crollata e molte donne sono cadute giù. E quando ero dall'altra parte, che c'erano tanti studenti angeli, loro mi hanno presa in braccio e mi hanno portata giù in strada. Mi hanno salvata. Perché io? Dove sono le mie figlie? Dove sono le mie figlie? Camminavo per strada su un tappeto di ragazze a pezzi e gambe rotte, borse, facce bruciate, cappelli. Che cos'è questo? Un uomo o una donna, questo qui per terra? La Caterina, il signore, ha voluto che si rialzasse. Perché? Nessuno sa quello che abbiamo visto là dentro. Come ho potuto dimenticare le mie figlie? Le figlie poi le abbiamo trovate, il marito e io. Ce le hanno portate in due ceste. Un pacco di cenere dall'America al Regno dei Cieli. 18 minuti alla TVC per bruciare 146 persone. È tutto per quella storia dei $2, che io non l'ho ancora capito adesso perché ci toglievano $2. La folla seguiva le due bare di legno e tutte le altre bare piangendo. Piangeva anche il marito. Sì, piangeva anche il marito, che non l'avevo mai visto piangere in vita sua. Com'è finito poi il processo ai proprietari della factory? Assolti. Hanno detto che la fabbrica era a prova di fuoco. I proprietari hanno giurato su questo punto e hanno detto la verità. Infatti sono bruciate soltanto le ragazze. Hanno preso un buon avvocato e la fabbrica ha ricominciato quasi subito a funzionare. Io sono tornata al lavoro. Adesso hanno preso tante calabresi, napoletane anche. E io sono qui. L'avvocato gli ha fatto avere anche un indennizzo ai proprietari. $445 per ogni morto. 445 per 146 fa... Non sono capace. A noi hanno dato 75 dollari per ogni figlia. La Lucia e la Rosa insieme fanno 150 dollari. Dov'è la giustizia? Per favore. Non dimenticate le mie figlie. Si chiamavano Maltese Lucia, di anni 20, e Maltese Rosa, di anni 14. E io sono Caterina, la madre. E me le sono dimenticate per salire sul tetto. Ma il Signore ha voluto che mi rialzassi lo stesso. Yeah. Belfovis Dora, 21 anni, Russia. Vendrov Berta, 18 anni, Russia. Wilson Joseph, 22 anni, Russia. Bisotsky, Sonia, 17 anni, Russia.